Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, martedì 4 novembre del 2014. Poco meno di mezz'ora all'appuntamento con il radioteatro, però prima parliamo un po' di musica. È diverso tempo che non mi occupo di musica su queste frequenze, ma questa volta lo faccio perché si parla di amici. Siamo in collegamento con Stefano Lattanzi dei Segnali Project. Intanto ben ritrovato Stefano. Anche a voi un saluto, a tutti voi, a Radio Onda Rossa, a tutto lo staff e ovviamente a tutti i radioascoltatori. Senti Stefano, per quanto riguarda Segnali Project, allora ricordo anche che siete presenti nel nostro archivio del radioteatro con uno spettacolo di Cinzia Villari in cui c'era la vostra musica. Esatto, noi con Cinzia Villari abbiamo anche partecipato ad un altro spettacolo di teatro su un romanzo di Gerardo Naclerio, proprio riadattato da Cinzia Villari insieme a Michele Villari, e abbiamo fatto parecchie esperienze in questo, da questo punto di vista, insomma. Allora, ripercorriamo per chi ci ascolta chiaramente la storia dei Segnali Project. Ripercorriamo la storia. Segnali Project nasce nel 2004. Ovviamente nasce dal connubio tra Stefano Lattanzi e Claudio Bevilacqua, che sono due chitarristi. Io con Claudio Bevilacqua suono dal 94, l'ho conosciuto nel lontano 94, quindi abbiamo una storia abbastanza ampia. Nel 2006 noi pubblichiamo un disco, facciamo delle serate a Roma, eccetera. Poi l'incontro con Pasquale Panella, che ci fa pubblicare un disco nel 2009 proprio su dei racconti suoi. È un lavoro abbastanza carino da questo punto di vista, perché è un CD con delle veline, con dei racconti di Pasquale Panella, ai quali veniva affiancato un brano inedito ovviamente e originale dei Segnali Project. Io e Claudio siamo gli autori ovviamente delle musiche. È ovviamente un progetto solo musicale, strumentale, senza ovviamente cantanti, insomma. E in questi dischi ha sempre collaborato il nostro Pierluigi Campili, se non altro anche Michele Villari dal 2007 fino al 2011. Michele Villari ha collaborato con noi, ed è qui ovviamente la conoscenza di Cinzia Villari, che ci ha introdotto anche nel teatro racconto insieme alle musiche in originale. E nasce adesso questo progetto. Nel 2013 siamo entrati in sala di registrazione, è nato questo progetto Ogivale da un'idea di Claudio Bevilacqua, che se ne è uscito una volta con questo, con questo termine, che noi abbiamo fatto proprio, e così la nascita di 10 brani del tutto originali su cui abbiamo fatto il disco, insomma abbiamo fatto il CD. Ed è andato in per la prima volta, è stato presentato all'Alexander Plus a febbraio del 2014. Ok. Di quest'anno. Stefano, la vostra è soprattutto un'attività concertistica dal vivo, in giro per locali. Esatto, in giro per locali, in giro anche per l'Italia, perché siamo stati spesso anche a Trento per i festival jazz, eccetera. Abbiamo vinto dei premi anche a Ciampino, a Serre, vicino Salerno. E giriamo ovviamente per locali, è evidente questo. Per dare un punto d'orientamento sempre per chi ci ascolta, e come potremmo definire la vostra musica? La nostra musica nasce nei vecchi tempi, era il famoso jazz rock, sì. Molto contaminato, che poi è andato sul progressive. Noi l'abbiamo fatto nostra, ma abbiamo lasciato molto spazio alla melodia. I nostri brani, per chi li ascolta, sono molto melodici, molto attenti proprio alla melodia del brano, senza poi, perché quando si parla di jazz fusion, rock, jazz, si pensa sempre a dei virtuosismi esasperati, no, all'interno della musica, e invece non è così. Noi facciamo senza alchimie, senza cose strane, cerchiamo proprio di dare molto spazio alla melodia, e questo diventa una musica di facile ascolto. È molto interessante sentirla mentre si lavora, per esempio, tra le altre cose. È molto leggera da questo punto di vista. Sì, sì. A proposito della musica, parlando con te qualche giorno fa, quando mi hai portato il disco, si diceva un po', intanto, che il vostro è un disco completamente autoprodotto. Sì, è autoprodotto, però abbiamo un'etichetta a questo punto, perché è stato sentito dalla Joy & Joy, e la Joy & Joy ha voluto mettere anche il marchio suo su questa cosa, perché ovviamente stiamo tentando di mandare questa musica per sottofondi musicali, capito? Pronto? Sì, Stefano, eccomi, scusami. No, credo che era caduta la linea, quindi mi stavo preoccupando, mi era venuto una bolla proprio sul collo. Era il lettore, stavo maneggiando qui il lettore. Si parlava anche di difficoltà rispetto, per esempio, al CD stesso, e poi alla difficoltà anche dei concerti dal vivo nei locali. È un periodo complicato questo. È un periodo complicatissimo questo, non è proprio da recentissima questa cosa, saranno almeno 4-5 anni che diventa complicato fare musica dal vivo, soprattutto a Roma. A Roma è veramente complicato, basti pensare che in una città grande come Roma i locali in cui si può fare questo tipo di musica e il jazz ci sono soltanto 4-5 locali, cui l'Alexander Plus, il Cotton Club, il Bebop, il Gregory's, eccetera. Quindi sono 5 locali soltanto, e con tutta la gente che ovviamente produce musica, vedi che diventa affollatissima la cosa, no? E quindi diventa difficile, ed è difficile anche dal punto di vista discografico la cosa, perché ormai i dischi è finita l'era di Sì, infatti è la crisi completa del supporto. Del supporto CD è veramente in crisi, ma non soltanto, anche di tutti i lettori e quindi di tutto il mercato che ne sta dietro, no? Per cui, voglio dire, la gente non lo compra più il disco, no? Difatti noi, il nostro CD sta anche su Spotify, sta su Amazon, però è Spotify che la fa da padrone, no? Sì. Musica gratis per tutti e basta, insomma. E quindi molta difficoltà noi per sopravvivere con l'anima e coi denti. Senti, Stefano, per concludere, io ti faccio intanto scegliere un brano del disco con cui ci salutiamo, a cui ti senti particolarmente legato, e poi, per chi ci ascolta, diamo dei riferimenti sia per la vostra attività di Segnali Project, sia per ma chiaramente avere informazioni sul disco, e se già ci sono delle prossime date in cui è possibile sentirvi dal vivo. Allora, guarda, per quanto riguarda le prossime date per sentirci dal vivo, sicuramente a dicembre al 28 di Vino, ma poi ci sono 3 appuntamenti mensili, a gennaio, il 13 gennaio stiamo all'Alexander Plus, il 21 febbraio stiamo all'Elegance Caffè, e il 21 marzo stiamo al Teatro Arciliuto di Roma a Piazza Navona. Ok, il sito internet per... Il sito internet è www.segnaliproject.com, ma c'è anche la pagina Facebook, per cui, e poi ci sono la pagina mia Facebook di Lattanzi Stefano, dove troverete tutte le informazioni. Senti, ci salutiamo con un'indicazione, la tua, rispetto al brano che ti dicevo, a cui ti senti particolarmente legato di questo disco. Guarda, il brano a cui io mi sento legato è una mia composizione, è Tirseno 09. Ed è la quarta traccia, quindi. Esatto, è la quarta traccia, perché Tirseno è una località che sta in Maremma, sul mare, vicino alla spiaggia di Giannella, ed è proprio uno stabilimento che io frequento assiduamente da 20 anni a questa parte. Allora, ci salutiamo, t'abbraccio e ci vediamo presto, Stefano. Grazie, un salutone a tutti e in bocca al lupo per tutto. Questi sono i Segnali Project, buon ascolto.